Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto, no, tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Debutto, singolare maschile, prima apparizione sulle scene, esordio della carriera teatrale, dell'attività di attore, cantante, concertista, eccetera, nel teatro o anche nel cinema, nella televisione. Nella radio? Assolutamente sì, ci siamo. Eccoci! Eccoci! Con un quarto d'ora di ritardo. Ritardo accademico, possiamo dirlo? Sì, sì. Tutto giustificato. Ciao a tutti, siamo Marzia, Margherita e Federico. Questa è Fuori dal Comune, puntata zero, no judgment. Potrebbe essere anche l'ultima eventualmente, dipende come andremo. Però insomma è un po' un esperimento in divenire. Vediamo come va oggi e vediamo poi come vanno le ferie e vediamo se ci vorranno ancora in questa fantastica radio che ci ha accolto. E con tutta questa confidenza eccoci per la primissima puntata. Che cos'è Fuori dal Comune? Beh, Fuori dal Comune è uno spazio aperto, come dicono tanti, di tante cose, quindi l'abbiamo voluto usare anche noi. È dedicato a storie, storielle, persone, personaggi, progetti, idee, insomma un bel calderone. A noi ci piace essere un po' massimalisti e ci piacciono un po' le chiacchiere, quelle tra amici, no? Ma sì, quelle robe lì, quelle che in fondo voglio dire tutto, vogliono dire niente, ma sono super apprezzate, no? Di solito sì, cioè immaginati la situazione in cui sei al bar, tipo sei con un gruppo di amici, quando si poteva andare al bar, sei fuori. Prima gaffa. Esatto. Quando si poteva andare al bar, sei fuori e magari c'è quel 2-3 minuti in cui vorresti dire qualcosa di interessante, intelligente, di carino, di mamma mia, ma che simpatico. Sì, di giusto, nel momento giusto. E ecco, l'idea un po' che ci siamo fatti con questo fantastica Fuori dal Comune è proprio di mettere dei contenuti a disposizione di tutti per poter avere quei 5 minuti di gloria, celebrità. Esatto. Con i tuoi amici o con anche degli sconosciuti, cioè che dicono: ah, ma guarda, ho parlato con Fede, pensa a te che persona brillante, non lo sapevo. Ho scoperto che... Esatto, tutte queste cose qua che... Fede, bravo, Hai visto? E quindi c'è tutte queste situazioni che possono tornarti utili nella vita lavorativa, nella vita di tutti i giorni. Sembriamo antipaticissimi così. Un po' sì, Vogliamo dire perché è fuori dal comune? Sì. Forse è un po' banale, ma diciamolo. Raccontiamolo. Fuori dal comune, beh, un po' perché fuori... dal comune, sì, perché non raccontiamo cose proprio normali. Normali. Sai quel gioco di parole super interessante, esattamente quello. E poi perché veniamo tutti da fuori, siamo tutti dei fuori ma non troppo, come tutte le cose in questo spazio, ma non troppo. Ma non quindi troppo. Veniamo tutti da fuori, ma non troppo. E quindi veniamo dalla meravigliosa provincia, io di Milano. Ah, che spocchia! Mamma mia! Ok, io e Fede da quella splendida area verde, o come la chiamavano un tempo, il giardino di Milano. Anche il pisciatoio d'Italia la chiamavano. Anche, ma non siamo qui per dire le cose negative, di Varese. Ecco, la provincia di Varese. Quindi vogliamo parlare di persone anche che vengono da fuori, insomma. Siamo a Milano, siamo in Radio Zam, appunto perché siamo tutti collegati su Radio Zam. Grazie Radio Zam, grazie che mille. Ci ha accettati. Che ha avuto questo coraggio più che altro. Esatto. E potete parlare con noi, abbiamo anche questo canale, non so quanti siete connessi, forse 10. Fateci dei cenni, è la nostra prima puntata. 10 se va bene, secondo me. Se ci va bene. Esatto. E se non vi siete già scollegati, quei 10 che erano connessi, quindi se volete scriverci, potete scriverci su Telegram a radiozam_chat, vi si apre un tipo account, un numero, e voi ci scrivete: ehi, ciao, siete bravi, state zitti. Esatto, e invece di usare Telegram solo per mandare le vostre foto hot, stasera lo potete usare per qualcosa di più bello. Esatto, parlare con noi. Quindi radiozam_chat, quindi trattino quello basso, chat, chat. CH-Cat, esattamente. Mettiamo un pezzo, Fede. Mettiamo, ora che siamo tutti caldi, mettiamo subito un pezzo. Quindi apriamo. In realtà, prima era la sigla, però vabbè, avevamo messo Bruno Risas. Adesso mettiamo un pezzo di un esordiente del futuro della musica italiana. Forse no, perché gli andrà malissimo. No, speriamo di sì, insomma. Dai. Cioè, no, dico magari, non lo sappiamo ancora, però un po' ci piace. E come primo pezzo mettiamo Bella Donna di Blanco. E poi parliamo del debutto. Miliari Michelangelo, lo Blanchito baby. Mangio sta roba gourmet, se che non fa per me. Non mi serve un sommelier, bevo da solo, no, non faccio brindisi, non sei famiglia. Tu che mi sfidi quando siamo a tavola, non batti ciglia. E tu odiami, odiami, odiami, odiami. Bella donna nel tuo bicchiere, se lo sai che sarà letale. 36 ore, poi, poi, 36 ore, 36 ore. E poi? Addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio. Guardami e fissami, vis-à-vis, se velenosa. Rossa come una rosa, rossa di spazio. Preferisco l'espresso, preferisco le escort. Tu scegli vino bianco e vino rosso. Odiami, odiami, odiami, odiami. Bella donna nel tuo bicchiere, già non sai che sarà letale. 36 ore, 36 ore, poi, poi. 36 ore, 36 ore. E poi? Addio, addio, addio, addio. Ci baci, goditi sui vostri magici, sì. Fanculo lo tuo punti, che il tuo modo chic. Butta tutto nel fuoco. E tu amami, amami, amami, amami. Bella donna nel tuo bicchiere, già lo sai che sarà letale. 36 ore, 36 ore, poi, poi. 36 ore, 36 ore. E poi, paralisi. Addio. Addio, addio, addio, addio, addio, addio. E rieccoci. Che giovani, raga! Mamma, che novità! Comunque, voglio solo dire ciao mamma! Ciao, ciao a tutte le nostre mamme, che probabilmente sono le uniche persone che ci stanno ascoltando al momento, ma è giusto così. Beh, il ruolo stiamo della ricevendo mamma. Un sacco di messaggi, eh? Ben quattro, raga, quattro messaggi. No, Fede, sono almeno sei. Ah, almeno scusa, sei. Sì, almeno sei. No, perché tre li abbiamo già aperti, sì. Quindi grazie per il supporto a tutti i nostri amici. Vi vogliamo benissimo. Però dovremmo festeggiare la prima persona che non conosciamo che ci dice qualcosa, perché esatto, in realtà per al adesso momento vi cioè, tutti. Grazie per il supporto, grazie, Marta, grazie mille, Carlo, grazie Valla, mille, Sandrelli, assolutamente. Ali, Marco. Però ecco, dovremmo festeggiare in un'altra maniera il debutto, quando il nostro debutto, quando qualcuno che non conosciamo ci scriverà esatto. qualcosa, sì, però vi vogliamo bene lo stesso. Di casa. Esatto. Esatto. Comunque chiudo dicendo che mio padre si è offeso perché ho detto solo ciao mamma. Ci sta. Quindi ciao papà, così giusto, la chiudiamo giusto. Qua. Facciamo okay. la parità. Ok, ok, ok. Allora, il debutto, perché siamo gente di contenuto. Assolutamente. E di storie. Quindi quando ci siamo detti Di che cosa parliamo per la prima puntata, abbiamo pensato, dai, parliamo della prima volta. Dai, la prima volta di... Ci siamo guardati e ho detto, okay, che palle, esatto. E quindi abbiamo solo trovato un altro modo di parlarne, che è il debutto. E quindi l'entrata in scena di qualcosa, di qualcuno, ma anche nelle... relazioni, contesti nuovi. E non so, raga, voi con il debutto in generale come... Ma allora, io ho avuto un un mio debutto personale quando ho fatto teatro. Lì mi sono sentita un po' una debuttante del teatro. Ah, brava. Sì. Che teatro facevi, Marghe? E facevo fatto? Improvvisazione. Non si vede. Sì, anzi, un pochino, non si sente. Un pochino sì, devo dire. No, invece il debutto che mi viene in mente, non lo so, forse la prima elementare, cioè la prima volta che andavi tipo in un contesto un po' particolare. Beh, io ho una storia. Giusto, vai. Aneddoto time. Allora, debutto nella scuola vera, post asilo di Marzi. La scuola della strada. La scuola della strada di Legnano. Manzoni di Legnano, ci siamo. Un applauso. Allora, io ragazzina, così vado nel banchetto e la maestra, dopo aver detto ciao a tutti, bravi, non lo so, siete in prima elementare, dice: volete dire qualcosa? Io tutta fiera alzo la mano e dico: sì, io voglio dire che sono felicissima di essere qui. Ma che bello, no? No, raga, perché no. Dopo la mia amica a fianco a me ha subito detto: amica. Esatto. La ragazza, la bambina. Cioè, eravate già amiche, è impossibile, era il primo giorno. E non lo siamo diventate. Esatto, immaginavo. La bambina a fianco ha alzato la mano e ha detto: io volevo dire che sono più felicissima di lei di essere qui. Ecco, il suo gran bel debutto, non di Marzia, ma dell'amica. Sì. Sfida dal primo giorno, tra l'altro. Cioè, sì, una bambina terribile. Ma poi, raga, vi vedete, io sono... Sì. Bambina del futuro, di oggi. Se sei all'ascolto, sappi che non sei stata tanto simpatica. Comunque, raga, parliamo di altri debutti. Oggi è il debutto dell'inverno. Olè! Inverno, eccoci! Ciao, inverno! Ciao, comunque non ne so niente di questa cosa, ma ve la racconto, perché magari potete chiedere a chi... Anzi, se all'ascolto c'è qualcun altro... C'è qualcuno che ne sa qualcosa, magari ci scriva. Comunque, in teoria, oggi si doveva vedere la stella cometa. Ah sì, Marzia ci ha raccontato quella tutta là. La strada mentre eravamo qua in macchina di questa stella cometa. Sì, allora, oggi si dovrebbe vedere la stella cometa quella là, no? Quella famosa dei presepi. E invece la stella cometa non esiste veramente. La stella cometa è solo il momento in cui, mi sembra, due pianeti che non nomineremo. Giove, a me pare di aver sentito Giove. Giove sicuramente, credo Giove e Marte, ma... Dilla come ti viene, dilla come... Giove e Urano, secondo me. Tanto Google non esiste. Esatto, quando si allineano quindi si vede si vede una scia e quindi si dice che sia stata la stella cometa. E quindi in teoria oggi dovrebbe vedersi, ci dicono che in Paolo Sarpi non si vede, credo che a Milano non si veda perché non si vedono neanche le stelle mai quasi. No, a Milano non ha mai fatto il debutto, neanche il tramonto. No. Still aspettiamo di vedere il primo tramonto. Aspettiamo all'ultimo piano del Bosco Verticale, chiamateci. Dove non abitiamo, tra l'altro. Esatto, però. Esatto, giusto per farvi sapere ma, come siamo. Oggi Fede ci raccontava che però è anche un'altra ricorrenza, che non è il debutto di niente, però no, fu il debutto. Oggi, 129 anni fa, momento storia, 129 anni fa veniva inventato dal dottor Naismith un fantastico sport che in Italia è conosciuto come pallacanestro, ai più conosciuto come basket o basketball, e 129 anni fa veniva giocata la prima partita di basket, che è una storia molto divertente che potete utilizzare con tutti i vostri amici, tutte le vostre amiche, assolutamente. Anche con i vostri parenti, assolutamente. E la cosa bella è che questo professore cercava un'attività da far fare ai ragazzi della sua scuola e quindi monta due cesti da pane su dei pali molto alti, e il gioco era appunto, come potete immaginare, fare canestro con la palla all'interno dei cesti. La cosa divertente è che c'erano solo 13 regole all'epoca, che non sto qua ad elencarvi perché abbiamo già sfondato il muro della noia, e la prima partita, che si giocava 9 contro 9, quindi neanche 5 contro 5 come oggi, finì, provate a immaginare quanto, 1-0, cioè che punteggio non basket è? Loro mi stanno guardando con una faccia come... Sono un po' scioccata, vedo nella vostra faccia lo shock. E quindi niente, oggi è il compleanno, 21 dicembre 2000, il basket compie 129 anni. 2020, sì, non avevo ancora finito. Ok. 21 dicembre 2000, 20. Il basket compie 129 anni. E allora, buon compleanno, caro basket. Buon compleanno, caro basket. Sì, sì. E allora, io, se siete d'accordo, farei l'esordio, il debutto del nostro primo pezzo che i nostri amici ci diranno. Minchia che pezzo. Non si possono dire le parolacce? Passa... Ma sì, minchia che pezzo, sì, penso di sì. Me... Comunque mi sa che devo sbagliare a scaricarlo, però è sempre comunque loro. Ah, va bene. Ve lo ricorderete tutti il loro debutto, se siete di Milano, comunque bazzicate qui in zona, al Miami Festival. Insomma, loro hanno debuttato sulla collinetta di Jack, quella che ai tempi era la collinetta di Jack, con dei sacchetti di carta sulla testa. In sbatti da debutto loro. Mega in sbatti da debutto, perché lo diciamo, stiamo parlando dei cani e vi dirò anche di più. Con Tessa è proprio l'animale da non debutto, da non palcoscenico, da non palcoscenico, però cazzo di una bravura, cazzo si può dire? Sì, raga, sì, ormai sì. Le parolacce di una bravura le possiamo dire, quindi okay. Ogni volta non sottolineiamo, no, okay. No. E quindi abbiamo scelto i cani per l'appunto, quindi prima del pezzo ricordiamo le nostre chat, non si sa mai che qualcuno si sia collegato dopo. Comunque se ci siete, raga, Radio Zam _ chat chat su Telegram e andiamo col pezzo. Vai. Thank you. siete giovani. Mamma, e questi erano i Cani con i Pariolini di 18 anni. Dal loro album d'esordio che si chiamava, per l'appunto, se non sbaglio, Il sorprendente album d'esordio dei Cani. Motivo wow. della scelta. Cioè, raga, ma quanto siamo tondi. Ah, tra l'altro, una cosa, non so se l'avete già notato voi tutti a casa, ma tutte le nostre scelte musicali di oggi hanno un senso. Bravo. Sì, perché noi vogliamo far sì di essere veramente delle persone sul pezzo, delle persone sul pezzo, e quindi tutte le nostre puntate nella nostra testa avranno delle canzoni che hanno un senso e sono collegate tra di loro, quindi non metteremo solo cose commerciali dell'ultimo che potete sentire no. alla radio che ascoltate in macchina. Ma ci sarà della musica scelta e selezionata da noi tre con un senso, esatto. In questo caso il tema era il debutto, quindi abbiamo messo dentro o ragazzi o emergenti oppure primi album di, e quindi tutto ha un senso. Sì, senza essere troppo chic, intellettuali, no, il giusto. Vogliamo essere a metà strada fra la Gazzetta dello Sport e Pitchfork. Noi, più o meno, come... Bello. Anche questa potete riciclarvela con i vostri okay. amici. Il debutto, allora. Vai. Allora, abbiamo iniziato a cercare su Google, perché cosa sappiamo fare noi millennials se non cercare su Google qualsiasi cosa? Io quando vado a fare la spesa cerco su Google quello che sto cercando, perché così guardo e confronto le immagini. Pensavo cercassi su Google come fare la spesa. No, però forse una volta ho cercato come ottimizzare... Quello ci sta, quello ci sta, quello ci sta. E quindi abbiamo cercato su Google debutto. Come affrontare il debutto. Entro in scena in una cosa nuova. E principalmente i risultati, scusate, parentesi, non vorrei fare questa digressione, ma credo che sia una cosa che valga la pena raccontare. Abbiamo cercato anche fuori dal comune su Google e i risultati sono solo come... portare la salma fuori dal comune. Sì, è il primo e lì risultato. Abbiamo deciso che era il nostro nome. Esatto. C'è stata questa epifania, non so, ecco. Comunque, tornando al tema del debutto, ci siamo resi conto che la maggior parte dei risultati e degli articoli che abbiamo trovato erano relative ovviamente al mondo delle performance, quindi allo sport, alla musica, oppure ai date. Si ritorna sul tema hot. Ci siamo resi conto proprio che la gente cerca come combattere l'ansia da debutto. Sì, ed è una cosa molto che ci ha lasciato un po' perplessi, perché abbiamo pensato, ma perché le persone cercano queste cose? Perché le persone vogliono essere bravi subito? No, perché nella nostra testa c'era tutta anche una filosofia di ode all'impaccio, sì. Che ci aspettavamo poi riconosciuta dal signor Google, e invece pare che proprio di impaccio non si debba parlare se si parla di debutto. No, abbiamo cercato anche su Google l'espressione ode all'impaccio o ode to awkwardness. Non ho trovato niente. Spoiler. Nella speranza di avere un intro della puntata tipo che fosse di un qualche filosofo, di un qualche pensatore, ma invece no. Esatto. E quindi siamo rimasti un pochino scioccati e colpiti anche dal fatto che ci siano proprio queste liste how to become a performer in 7 simple steps. Però perché, raga? Life hacks. Esatto. WikiHow. Esatto, tutte queste cose qua un po' così, difficili anche. Perché vogliamo essere subito bravi a fare le cose? Difatti noi abbiamo proprio, decidiamo una cosa, noi vogliamo fare anche un po' schifo. Cioè ci sta che perché qualcuno perché lo schifo che inizia... è bello. Quindi se vogliamo tirare fuori, no? Un... Che è un po' sunto. Il ruolo della Marghe. Esatto, nel se vogliamo fare. Esatto, se vogliamo proprio tirare fuori un messaggio, un qualcosa. Quello che abbiamo imparato è che Google ci vuole super performer. Sì, ci vuole super performer. Cioè Google alla fine vabbè, ma Google è... Il Google, mondo, la società. Mondo. Esatto. Esatto, la società ci vuole o noi pensiamo di essere... che gli altri si aspettino da noi il massimo dalle nostre prime volte... Cose complicatissime. Oh, mamma. Mamma mia. Quindi Marzia, non possiamo diventare rossi, non possiamo balbettare, non possiamo sudare. Non possiamo dire persone. Non possiamo dire persone. In questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Lo dice Edoardo citando Cremonini, quindi è una cheat della cheat. Che inception! Che ciao Edoardo! Mamma mia, ciao Edo, grazie per questo contenuto, probabilmente il contenuto più alto dall'inizio della puntata, grazie. Ma anche rispetto a quello che abbiamo detto noi. Ma lo conosciamo Edoardo, è un nuovo? Forse sì. Ok, vabbè, insomma, quindi ritornando sul pezzo, in buona sostanza Google ci vuole... aspetta un attimo, che scusa. Carino, Luca ha detto... Google dice che oggi è la notte più lunga dell'anno e vorrei passarla con voi. Oh, grazie, Luca. Luca, ma sei la persona più dolce della mia serata. Raga, gente di... Vorrei dire gente di Legnano, ma purtroppo Luca dirò. Ah, ok, gente dirò. Gente comunque, di raga, gente da fuori. Gente da fuori. Tutti quelli che ci scrivono sono gente da fuori, noi siamo gente da fuori e vi lasciamo con un pezzo fuori. Sì, raga, con un pezzo de fuera, volete dire? Sì. Quindi dopo avervi raccontato, insomma, che cos'è per noi il debutto, vi lasciamo con un... No, vi lasciamo. Ci sarà... Cioè, andiamo ancora. No, non vi siamo lasciamo del tutto. Stiamo qua. Quindi con un pezzo di una... Con uno dei primissimi pezzi di una delle rega del momento, che anche lei mi sa che viene da un paesino... Vicino... A Vicenza. Vicenza, esatto. Sì. Ok, vai. Vi lasciamo con Sciccherie di Madame. Certe sere in cui mi manca merda e siccalia, uscire con due calice le ciccarie, c'ho amore bibi quanto bello però succhialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche, certe sere tu mi manchi perché ficcachie, di un poco ancora finché sembriamo alle fanterie, io non mi drogo, sciolgo le passi e di gesive, c'ho amore bibi bello però non mi coccolinie, uscire con l'abito nero in sciccheria mentre metto cose per sembrare come quelle un po' più fighe, però mando un bacio a quelli che mi davano i bacini ma senza voler me, allora ciao amici ciao e trovo quelle sensitive, mi fanno parti per la bella Roma, ti facciamo le valigie, portati tutti gli orimoni e le bigiotterie, perché giù a Roma te ne trovi, fidati di me. Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce. Ieri sera, da ubriaca, ho urlato forte il tuo nome. Sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo, e quando mi sveglio il cuore a palla, abbraccio il mio cuscino e lì ci sei. Certe sere in cui mi manca merda e siccalie, uscire con due calice le ciccarie, c'ho amore bibi quanto bello però succhialie, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche, certe sere tu mi manchi perché siccachie, do un poco ancora che mi parli delle fanterie, io non mi drogo, sciolgo le passi e digestive, ciao amore bibi bello però non mi coccolinie, se vogliamo noi possiamo non cadere, e se mi parli con quel tono anche stasera, beh, trovo in disco qualche bimbo come me, come ha voglia di baciarmi collo mentre parlo di come sei te, la saliva che non metti sopra le cartine, la sprechi a dirmi ciò che non voglio sentire, balla, mica balla sciccherie, che la folla chieda chi è, esco fuori per una giga e vedo si calie. Mamma mia, bello mio, che mi manca la voce, questa sera da ubriaca ho urlato forte il tuo nome, sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo, e quando mi sveglio il cuore a palla abbraccio te. Certe sere tu mi manchi perché si chiacchie, do un poco ancora che mi parli delle tue mani, io non mi drogo, sciolgo il cuore del mio baby feeling, c'ho amore baby bello vero domingo. E questa era Sciccherie di Madame. Che seria, Marghe. Via, Marghe, è stata bravissima anche a annunciare il pezzo concluso. Grazie, grazie. Allora, Madame l'abbiamo scelta perché è stata tra le emergenti di questi ultimi possiamo dirlo, 2 anni più o meno, sì, quella che ci ha colpito di più, perché ha avuto il debutto nel mondo della musica, nel parterre musicale italiano, tutto sommato più sincero, cioè... Per la categoria debutti sinceri, ecco, Madame, che abbiamo scoperto essere di Creazzo, sì, grazie, grazie Laura per la, esatto, segnalazione. Provincia di Vicenza, comune di 11.000 e rotti abitanti, ho cercato su Google. Brava Marzi! Perché noi cerchiamo su Google. Sempre. Vabbè, allora, Madame è il nome d'arte di Francesca, cara Francesca, che ha pubblicato questo in realtà secondo brano, perché sì, il primo è stato Anna, sul tubo nel 2018, quindi Sciccherie, e fin lì tutto bene, nel senso che, ah, tra l'altro oggi Sciccherie, nota, mi ha vinto il disco, mi è diventato disco d'oro. Oggi? Oggi. Mamma mia, yes, mia, cioè lo sapevano, hanno aspettato. Hanno aspettato. O forse aspettato, grazie al nostro play. Forse, raga, mi dicono, esatto, ora. Però... C'è la particolarità di Madame, che è diventata famosa, o meglio il suo debutto ha avuto uno slancio notevole, quando a Torino, era il lontano 2018, un giocatore di calcio della Juventus, tale Cristiano Ronaldo, do you know? E mi era tutto bello rilassatone sul balcone di casa sua, sono andata a rivedermi la stories, giuro, okay, e niente, rilassatone così sul balcone, mi mette il pezzo di Madame, cioè allora Cristianone Ronaldone mi aveva 178.000 follower, e cosa è successo, Madame? Che mi è partita come un razzo nel cielo, diventando una stella cometa. Una stella cometa che possiamo vedere anche stanotte, ricordiamo. Non da Milano. Forse Madame da Creazzo. Sei ancora lì? Madame, se ci sei a Creazzo, battici un colpo e facci sapere se vedi la stella cometa. Ti salutiamo. No, la cosa molto particolare di Madame è che quando iniziò a diventare, diciamo, famosa o conosciuta ai più... Era anche proprio una ragazzina, cioè era molto piccola perché aveva 16 anni, 17 anni, esatto. 17. Ed era proprio, cioè si è trovata anche forse nella situazione di, come siamo noi ora e come ne parlavamo proprio prima, non essere pronta a ricevere tutte le attenzioni del mondo musicale. C'è da cagarsi addosso a 17 sì, anni. Sì. Io mi cago addosso per venire qua in radio, quindi mi immagino sì, lei. Sì. No, cioè, la cosa bella è che tra l'altro ne parla non tantissimo. Non solo perché fa freddo qua. No. Fa un pochino freddo, però siamo molto agitati e molto agitati. Contenti. Sì. No, la cosa carina è che continua a parlare di questa roba. Cioè, nel senso, ogni 2x3 ha questa slancio verso i fan dove dice, oh raga, sono comunque sempre la piccola Madame di 17 anni. E il bello è che è diventata una donna, tra l'altro. Cioè, in 2 anni. Io vi giuro, fisicamente, io mi ricordo il primo video, forse la prima intervista che aveva fatto dopo Sciccherie, non mi ricordo dove, non me lo chiedete, che era proprio un po' paffutella, cioè proprio sì, la classica ragazzina del liceo. Mica, la vedi oggi, una figa. No, è proprio, è proprio bella. L'evoluzione che tutte avremmo voluto avere, esatto, no? Ma è la sincerità. È la sincerità che conta, sì. Sì, beh, io se guardo una mia foto al liceo, una mia foto ora, sono identica. Cioè, Edoardo. Sincera, ma identica. Amore sincera. E Edoardo dalla chat dice che, cioè, ci racconta dei piccoli aneddoti side story di Madame e della sua dell'essere diventato famoso. Che dice: anche Calcutta le ha dato un super boost. Quindi grazie, Edoardo. Ah, forse è Edoardo. Ah, forse è Calcutta che sta parlando. Tu li hai mai visti, Edoardo e Calcutta, no, nella stessa no, foto? No, non li ho mai visti. Come la stella cometa e Gesù Bambino. Esatto, perché esatto, era una gag che era uscita, sì, prima. Che però non abbiamo avuto modo, scusate, di farlo. E invece in una serata di Chiedimi e Rispondo su Instagram qualcuno gli ha chiesto artista da tenere d'occhio e lui ha risposto Madame, mi piace molto, quindi grazie mille anche a Edo, grande, grazie Edo. Noi ormai ci siamo fatti, insomma, gli sponsor ufficiali di Madame, un giorno Madame ringrazierà anche noi. E, bene raga, mettiamo il prossimo pezzo. Andiamo con il prossimo pezzo, che è un pezzo del 1986. Quindi, ciao Madame. Raga, Madame non eri ancora nata. Qua Sciccherie vere, Non eri ancora nata. 1986 era il loro album d'esordio, album che ha spaccato le classifiche mondiali a partire dall'America. E vi lasciamo con No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys. No sleep till... Brooklyn! 8 days a week. No sleep till. No sleep till Brooklyn. No sleep till Brooklyn. No, no sleep till Brooklyn. Brooklyn. No, no sleep till Brooklyn. No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys, dal lontano 1986. Sono le 21:05 del 21/12. Wow! Siamo 2020. Siamo su Fuori dal Comune, la nostra puntata di debutto, la cosiddetta puntata zero. 000. Esatto. E abbiamo già detto che siamo fuori dal comune. Sì, abbiamo Fede, Marzia e Marghe. Sì, yeah. Vabbè raga, scusate, cioè, esatto. Ogni tanto ci parliamo un po' sopra perché è il nostro debutto e quindi debetta. Ci perdonerete. Esatto. Comunque nella pausa, intanto che ascoltavamo il nostro pezzo, ho aperto il mio amico Google e iPhone mi ha Google, non so esattamente come funziona quando ti compaiono le parole sotto, tipo stai cercando questo, io non avevo ancora iniziato a digitare. E sapete qual era la search che mi consigliava? No, diccelo. Raga, Christmas Star. Wow, quindi da qui impariamo che o Google ci ascolta, che può essere. Che non è che lo impariamo oggi. No, no. Oppure tutti, forse qualcosa avevo già googlato, però probabilmente molta gente starà cercando Christmas Star, stella cometa, per chi si fosse sintonizzato ora, la stella cometa si vedrà. Stasera o comunque in Europa si vedrà, insomma, in questi giorni la stella cometa non esiste veramente, no. Non c'è una stella con la codina che sorride. Sarebbe bello, posso dire? Chissà quanti di voi avranno impersonato la stella cometa alla recita dell'asilo. Che grande butto! Posso dire una cosa? Dilla! Raga, io alla recita dell'asilo, il primo anno, ho fatto Gesù Bambino. Mamma, che fortunato! Ho fatto Gesù Bambino e mia mamma, che ci sta ascoltando, ciao Mari, ha pianto tantissimo perché ha detto, guarda te, certo. Ho fatto un figlio che ha 3 anni e già Gesù Bambino. Poi deve essere andato storto tutto quanto. Hai dato tutto lì, hai 3 anni, poi dopo il resto è andata via. Io ho fatto l'agnolo, come dice mio padre, l'angelo. L'agnolo. Sì, l'agnolo. Anche io ho fatto l'angioletto. L'albero una volta, però non l'albero fermo, l'albero che parlava, però io avevo questa... Ma com'è l'albero che parlava, Marcia? Sì, era la storia dell'albero. Cioè, non è che adesso gli alberi non possono parlare. Io avevo questa cosa che ero sempre malata. Astia. Però ma nella recita? Nella recita. Cioè, non è che impersonavo una malata. In che senso? Ok. In che senso? No, perché magari era una cosa cristiana. Però io ovvero... Io vera performer e andavo comunque a fare la recita. Mamma! Anche da malata. Adesso non so se sto dicendo una cavolata, forse dopo chiedo conferma a casa, ma mi sembra che me la sia stata raccontata così. Ok. Comunque, tornando a noi, ci siamo detti, come programma radiofonico dovremmo avere anche noi le nostre rubrichette. esatto, i nostri momenti così ricorrenti durante le puntate. E oggi vi presentiamo il primo, che è un grande classico. Siamo un po' delle basic bitch, però voglio dire, ci sta. Sono le notizie della settimana. Sì, esatto, soprattutto perché sappiamo che settimana vi spetta. E lo sappiamo. E lo sappiamo. Sarà un Natale particolare. Con Christmas Star, se lo vedrete stasera. Sì. Però particolare perché probabilmente starete in meno a tavola o comunque un po' più a stretto contatto con i genitori. Esatto, stretto contatto con i genitori e non ci avrete per niente voglia di parlare né del Covid né di voi. No. Del fidanzato, della fidanzata. E non ci sarà neanche vostro cugino di secondo grado che vi racconta, esatto, di quell'aneddoto là che ha incontrato il Mario al bar. Ma sai il Mario cosa mi... Non ci sarà. Parlano così i tuoi cugini di secondo grado. Di secondo grado. Ma quanti anni hanno? Scusami. Va bene, quindi abbiamo detto, abbiamo tirato fuori tre cose su cui dover essere sul pezzo questa settimana. Quindi quando non c'hai voglia di raccontare i cazzi tuoi, puoi parlare di... Ma anche perché posso dire una cosa, cioè, non è solo che non c'è voglia di parlare dei cazzi tuoi, però dopo 4 giorni che sei chiuso in casa, saremo chiusi in casa, raga, cioè perché sarà zona rossa, tutti chiusi a casa, e quindi dovrai tirar fuori delle storie che oltre come va il tuo lavoro, appunto tutte le cose. Sì, anche perché poi non è che abbiamo fatto grandi cose in questo 2020. Esatto. E quindi vi abbiamo trovato 3 grandi notizie utili per qualsiasi tipologia di uditore, perché non è che diciamo multi-target, difficili. No, e la prima notizia... E via con... di conversazione. Sì. Sanremone, siamo arrivati già a quel momento dell'anno in cui si comincia a parlare di Sanremone. Quindi qui direi, quest'anno forse la zia expat o la fidanzata expat di vostro cugino di secondo grado non ci sarà, quella che dice Sanremo what? Esatto, che non c'è mai stata nella mia famiglia, però... Neanche nella mia, però da qualche parte ci deve essere stata. Forse erano tutte da te, tutte. Ma nella mia no, ok, però... Dai, ci sarà. Tra i 6 ascoltatori che abbiamo, almeno uno ce l'avrà, una cugina. Esatto. Il fidanzato di cugina. Mi è capitato di dire a amici stranieri: Sanremo è una cosa veramente importante che tu devi sapere per la cultura italiana. Hai fatto bene. E qui tutti si scollegheranno. Ma perché è importante Sanremo questa settimana? Per le small talk. E soprattutto perché questa settimana è stata annunciata la lista dei 26 big che Federico sa tutta a memoria e che adesso ci andrà a decantare uno per uno. No, non tutti quanti, però diciamo che quest'anno la lista dei partecipanti a Sanremo si può dividere in 3 grandi blocchi. Vai. Allora, abbiamo le novità, che non sono i giovani, sono le novità per il mondo di Sanremo, che però magari è gente che ha già fatto 3-4 album, esatto. Tra cui mettiamo la sopra citata Madame. Rieccola. Eccola. Ci sono i Comacose, ad esempio, che partecipano. Poi una serie di gente che esce da Amici e quelle cose lì, cose tipo Gaia, uno che si chiama Random, che sinceramente... Ecco, Random, io non ho ancora capito chi è, però va bene. Cioè non abbiamo capito se effettivamente è una persona che si chiama Random o se è un buco vacante che tengono aperti fino a marzo per aspettare appunto a vedere se trovare qualcuno altro. Esatto, vabbè, qui lei insulta, vabbè. No, vabbè. Ok, forse era una battuta. Forse era una battuta, poco riuscita, vai. E poi abbiamo le vecchie proposte, cioè i classiconi. Le vecchie glorie. Sì, cioè... I mai più senza. Esatto, c'è cioè Orietta Berti, raga. Orietta Berti. Francesco Renga. Ehi. E Malika Ayan. E accoppiata del momento, e sarà poi accoppiata ancora più del momento... Fedez e la Francesca Michielin. Super pop. Dopo che Fedez ha preso l'Ambrogino d'oro, Fedez, se ci stai ascoltando, dimmi come hai fatto. Marzia è tutta la vita che vuole un Ambrogino d'oro, tutto per sé. Il mio obiettivo ormai. Parlando di Sanremo, però, ovviamente ti vengono in mente una serie di aneddoti. No, più che altro, sai, parli di questa gente giovane, però poi se veramente finisci davanti alla zia, che poretta era da sola e non conosce Comacose, che si è unita alla festa. No, il Fedez magari lo conosce. Magari però... sì. Allora puoi cominciare con... Oh, ma te li ricordi, Jalis? Voi ve li ricordate, Jalis? Se non ve li ricordate... I Jalis facevano più o meno... Così. Più o meno così. A dirti di sì, fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci porterà. Beh, devo dire che bravura a beccare il minuto. Lasciamola di sfondo. Lasciamola di sfondo. Comunque, abbiamo letto, ma come tutti voi penso in questi giorni, che quei mattacchioni dei Jalis vengono scartati da 24 anni con 24 canzoni diverse. Sì, loro ci riprovano tutti gli anni, cioè loro da Fiumi di Parole con cui vinsero Sanremo nel 97. Esatto. Dopo vi rimettiamo il ritornello perché sappiamo che qualcuno stava iniziando a dire: ah, certo! Ma certo! Mi ricordo! E quindi questi ragazzi dei Jalis da 24 anni si presentano al festival, loro non rinunciano, momento topic dell'anno, si presentano al festival, presentano una canzone e li balzano. Poi se facciano altre canzoni al di fuori non c'è dato saperlo, però... È la verità. E la cosa è successa che praticamente alla 24esima volta che sono stati balzati dal festival si sono un po' lamentati sui social i ragazzi. Però la nostra domanda è stata: raga, cioè avete vinto un festival di Sanremo, diciamo quasi per caso, perché viene anche riconosciuto come un momento strano della televisione italiana. C'è del mistero dietro questa vincita. Anzi, andate internet a guardare nell'internet che è pieno di storie. Se volete del mistero, raga, è la vincita dei Jalis a Sanremo. Terrapiattismo a manetta. Esatto. E la questione è: voi vi presentate da 24 anni e tutti gli anni venite balzati? Cioè, non vi siete fatti due domande, raga? Ma forse fate un po' della musica che fa schifo e non vi e di nuovo più insultare. Prendere. E di nuovo insultare. No, ho detto forse. Forse, cioè, non credo. Vabbè, che poi... comunque, Poretti, non è che sono gli unici che si sono lamentati però in questi giorni. Anche i loro fan, ma soprattutto Morgan. Morgan. Cioè, raga, Morgan. Morgan adesso è tornato. Non facciamo finta di non ricordarci il siparietto Morgan Bugo. Sì. Tra l'altro Bugo mi è presente al esatto. Sanremo di quest'anno, quindi cioè, no? E qui è stato il momento tragico della settimana sempre collegata a Sanremo, che Bugo viene preso, viene selezionato, Morgan impazzisce fortissimo e inizia a pubblicare chat di lui con Amadeus, che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro. Ovviamente, probabilmente aveva finito le pastigliette Morgan, aveva fatto Puretto. Un po' una serata un po' particolare e si è trovato un po' ancora un anno dopo dal grande momento di Marco Castoldi appunto a sclerare un pochino. Sì, ma pare che abbia anche raccolto delle firme per questa roba. Non si sa però. Vabbè. Però comunque quello che impariamo da queste vicende è che hai rubato il lavoro. Scusami, ok. Va bene. Lei racconta quello che impariamo dalle vicende. Tu fai il sunto di quello che abbiamo detto. Da queste due vicende io imparo che vabbè, lo sapevamo già, però anche i boomer dello spettacolo evidentemente piace lamentarsi sui social, visto che sia i Jalis che Morgan hanno scritto un bel pippone. Sì, assolutamente. Lamentandosi Sanremo, che siamo qui a parlarne, però. Comunque vi ricordiamo, il Festival di Sanremo sarà la prima settimana di marzo del 2021. Ah, ecco. Infatti mi chiedevo quando siete presenti. Quest'anno cadiamo nella prima settimana di marzo, mi pare dal 3 al 7 marzo, dal 3 al 6 marzo. 26 big in gara, 12 nuove proposte. Madonna, 26 sono tanti, 26 sono tanti. Ok, io chiederei il Sanremo chiuso. Risentendo il ritornello dei Sentiamo un attimo Jalis. Il ritornello di Jalis. Vediamo se lo becchiamo. Questa in realtà, cosa molto difficile. Esatto, non credo. Prima era andata di culo, raga, è inutile che ci riproviamo. Vabbè, proviamo. Un po' prima del ritornello. Un po' prima, dai. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Eccolo. Sei fatto così. Per arrivare sul volume a dirti di sì, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. E va bene, assumiamo sui Jalis e passiamo alla seconda notizia della settimana. Vai, e qui arriva la nostra economista. Non sono assolutamente io. No, però mi collego invece a una cosa che ci hanno detto, che ci hanno chiesto in chat. Ah, vai, sì, certo. Francesco ci chiede. Ciao Francesco. Ci chiede: parlare di politica al cenone di Natale, sì o no? Io direi. Capiamo, dipende dai commensali. Sì, comunque sì, dipende sì, che, sì. Che però sono più stretti rispetto a stavolta. Solito, non quindi, c'è, esatto, è un po' più semplice forse. Cioè, è difficile che ti becchi, appunto, o l'expat che, appunto, magari viene da fuori, non ha proprio chiara la situazione, o lo zio un po' strano, un po' fascio. Beh, io avevo degli scazzi mica male tra mia cugina e mia nonna sul tema Berlusconi. Partivano. Li abbiamo avuti. Comunque, tienila lì, Francesco, come. vela in caldo. Esatto, come un momento che puoi utilizzarti, cabaret. Però forse non so. Esatto. Comunque, un argomento di cui potresti parlare, che non è veramente politica, però insomma può c'entrare, è che, raga, Airbnb si è quotato in borsa, in realtà non questa settimana, qualche settimana fa, verso metà dicembre, Airbnb fa il suo esordio in borsa, successone. E tutto il mondo a dire, ma come? Come, raga? Cioè, quest'anno? Cioè, 2020, Airbnb si quota in borsa e fa il botto. E invece che debutto, no? Invece è successo, Airbnb andava una bomba prima del Covid, comunque andava bene, e, nonostante i vari screzi con le città, no? Perché certo. Airbnb ha vari questioni, sì. Dibattiti, e sì, litigi tra con le varie città, soprattutto sapete che in città come a Berlino, New York, Amsterdam, Barcellona, Airbnb not very good, visto male proprio. A Milano non siamo ancora arrivati a quel momento, però insomma c'era già un po', c'è comunque un po' di maretta. Adesso Airbnb non tanto bene, non va tanto bene per via della pandemia, però è entrato in borsa. Ma tra l'altro ci siamo chiesti come ti vesti quando poi vieni quota? Cioè, nel senso, cosa succede? Il giorno in cui, cazzo, sei in borsa, cosa cazzo succede? Cosa succede? Ci siamo un po' informati poco, male. Poco male. Allora, però ho guardato, praticamente pare che adesso al New York Stock Exchange, quando ti quoti, suoni una campana virtualmente. È già. Ormai è tutto, con uno sfondo strano dietro. Non posso dire. Dillo. Abbiamo fatto questa puntata per questo, solo per quindi questo. Vai. Io premo il cringe button. E l'ha premuto. Premo. Boh, sì, premo. Lo premo perché non si può sentire la virtual bell. No. Ma anche lo sfondo di Teams. O di Zoom, scusate, cioè, voce la vede il collega. Ne parleremo, infatti non facciamo spoiler. Sì. Perché no, perché altro, raga, sennò vi tengo qua. No, due o tre giorni. L'ultima notizia che vi diamo della settimana, quindi l'ultima cosa di cui potrete parlare è ribattere al vostro zio stretto che è lì che dice sì, però in Germania stanno tutti bene. E vi dite, ah, ma zio, ma lo sai che questa settimana, che non è neanche questa settimana, ma è qualche... Allora non sono le notizie. No, sono notizie che ti puoi giocare a Natale, non è che sono proprio di la settimana. Però raga, è lunedì oggi. Vabbè. Comunque. Hanno aperto finalmente l'aeroporto di Berlino. Se siete mai stati a Berlino sapete che c'erano due aeroporti piccoli, un po', insomma, scagati. Hanno finalmente aperto l'aeroporto di Berlino Brandenburg. Esatto, Brandenburg. Mm-hmm. Sapevo anche il tedesco. Con quanti anni di ritardo? Niente, raga, l'inaugurazione è nel 2012. Cioè, no? Noi che ci lamentiamo della metro, quelle robe lì, cioè, non è che poi solo in Italia si fanno le cose lentamente. Cioè, anche in Italia. Anche in Italia. Ma anche a Berlino. Esatto, poi questo ha suscitato molta ilarità tra il pubblico e soprattutto tra i tedeschi, che hanno ovviamente shitstorm sull'aeroporto da parecchio tempo. Se siete per caso interessati a seguire la vicenda, un nostro competitor che si chiama Radio Spätkauf in inglese, che è una radio di Berlino online che fa, insomma, che come noi, divertente, cazzeggia. Come si chiama, Marzi? Radio Spätkauf. Che cosa vuol dire in tedesco? Avete presente gli speti, che sono quelli tipo il nostro peto? No. Sai, per dire, il scoreggia. Nostro negozietto, il Bangla. Non voleva essere. Vabbè. Le negozietti di quartiere. Negozietto di quartiere. Sempre aperto 24 ore. Esatto. Ecco quello. Sì. Più belli. Comunque, questi ragazzi della radio Spätkauf hanno un podcast che si chiama How to Fuck Up an Airport. E parlano proprio dell'aeroporto di Brandenburg, di Berlino. Quindi... benvenuto, nuovo aeroporto a Berlino. Benvenuto, oggi tra l'altro, raga, vi dico l'ultima cosa su tedeschi, poi mettiamo l'ultimo pezzo, sempre che vi potete giocare. Stavo ascoltando sempre il nostro competitor, che è NTS. Vabbè, competitor alla lontana. Neanche sul radar per loro, no? È la ragazza molto carina, con una voce un po' più sexy della mia, chiedeva ai suoi follower, ma raga, ma sapete a Berlino quanta carne doner si consuma in un giorno, e così ha preso un po' di ordini, ha preso un po' di guess su, uh-huh, sulla cosa. Come quando alla sagra dici quanto pesa il salame? Niente, raga, 400 tonnellate al giorno. Mamma mia. Mamma. E ha concluso dicendo: tedeschi, tutto bene? Tutto bene. Ok. E quindi su tedeschi tutto bene vi lasciamo con il prossimo pezzo, Rosalia, direttamente da circa vicino a Barcellona, con Malamente. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. La que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, así sí, malamente. Mira. Eccoci, e questa era Rosalia con Malamente. E niente, Rosalia l'abbiamo scelta perché pure lei ha avuto un debutto particolarone. Molto, cioè, particolare. Molto particolare, nel senso che, Fede, correggimi se sbaglio, lei mi era una studentessa universitaria spagnola, esatto, che faceva principalmente musica flamenco tipo, sì, roba così, molto, diciamo, molto classica, molto spagnola, esatto. Quando a un certo punto per la tesi di laurea mi ha mica sfornato il disco che poi le ha fatto fare il grande debutto, di sì, cui gode tutt'oggi. Sì, difatti è una storia molto interessante perché Rosalia faceva una musica non proprio, diciamo, radiofonica interessante e neanche troppo commerciale, se vogliamo. Difatti se andate su Spotify a cercarvi le sue cose di prima è un po' classica, diciamo. Poi appunto prende questa strada mischiando la, diciamo, letteratura spagnola alla sua musica, mischiando un po' di influenze diverse, e viene fuori quel grande album che è appunto il suo album d'esordio, basato tutto quanto sul tema che stava seguendo per la tesi di laurea. Quindi cosa impariamo da questa piccola storiella? Che alla fine l'università può cambiarti la vita. Sì. Quindi ragazzi, studiate, studiate, studiate. Assolutamente. Può cambiarti la vita talmente tanto, talmente sì, tanto. Rosalia è un personaggio comunque molto discusso in Spagna. Se tra di noi ci sono dei spagnoli? No. Spanglofoni. No, non credo si dica spanglofoni. Appassionati di Spagna. E di spagnolo. E di spagnoli. O di spagnoli. Magari lo sanno. Comunque Rosalia è un po' controversa perché, beh, molto successo anche in America Latina. Prima star, alla fine lei super famosa anche negli States, insomma, star europea, ma anche internazionale. Tra l'altro si è trasferita negli States, sì, esatto. Fatto bene. Comunque mega apprezzata da un certo punto di vista, dall'altra un po' controversa perché lei comunque all'inizio faceva musica tipica spagnola, tipo flamenco, ma lei non è lei è catalana, non è galiziana. Che tecnica. Più o meno. E, però è diventata, cioè è stata usata anche come insomma, come arma, attrezzo, bravo, di politica, esatto. Sì. Perché sapete, nella sua Rosalia, quando canta, dice la Rosalia e poi utilizza spesso questa espressione che è tra tra. Tra tra. Bravo, grazie. Bravo, grazie. E la nostra amica Adriana Lastra, che è la vicepresidentessa del Partito Socialista Spagnolo, quando alle elezioni del 2019 tra il Partito Socialista e Podemos hanno trovato un accordo, lei annuncia l'accordo twittando due pagine d'accordo e come copy cosa sceglie di mettere? Tra. Grande fede. E da lì l'ho iniziato a usare una serie di volte, tra cui ritwittando Rosalia che invece mandava a quel paese, esatto, l'altro, il partito nazionalista. Con un semplicissimo fuck Vox. Esatto, che poi però ho letto che quelli di Vox l'hanno... hanno fatto un po' di shame on Rosalia perché poi subito dopo aver twittato fuck Vox, scena 2, lei, jet privato, Vegas, here I come. Vabbè, ma adesso non è che stiamo... ma non è che stiamo lì a vedere su... No? Cioè, ma poi cosa vogliono quelli di Vox? Oh, ma dire, allora! Vox! Mollateci, che ora vi ritwittiamo tutte le schifezze con... Quindi, insomma... Quindi la Rosalia è entrata parecchio nel tessuto sociale del suo paese. Beh, ha fatto anche il suo debutto su Twitter, forse, sì. Nella Twitter, politica. Tra l'altro Twitter, un social che vedevamo ieri cercando questa storia, che ormai, cioè ormai praticamente è il social per le persone intelligenti, no? È vero. Cioè è proprio il social per gli artisti, che però non che vogliono farsi vedere, show off, è proprio per mandare un messaggio politico. Quindi social per gli artisti, social per i messaggi politici. Sì. Diretti, forti, cioè se pensate alle elezioni americane c'era Trump che stava smattando su Twitter, pam pam pam, per anche, diceva Marzi, anche un po' per la scena scientifica. Sì, tanti ricercatori, tanti PhD, scienziati, tanti studiosi, sì, utilizzano parecchio Twitter, giornalisti utilizzano parecchio Twitter, grazie per averci insegnato mille. La sintesi. Sì. Esatto, e tra l'altro allora se dobbiamo tirare fuori anche qui un insegnamento, allora Facebook non lo usi più. No. Instagram se non per lamentarti se ti sei presentato 24 volte a Sanremo oppure sei un boomer, infatti, esatto. Qui mi collego, quindi Facebook o non lo usi più o sei un boomer, Instagram lo usi per scopare, no? Un po' sì, si può dire. Sì, secondo me un po' sì. E Twitter lo usi se proprio vuoi darti una lure di intelligenza. Esatto. Infatti iniziate a utilizzare Twitter. Grazie ai miei amici intelligenti per avermi fatto scoprire questa cosa della nicchia di Twitter. E poi, prima di lasciarvi al prossimo pezzo, volevo dire che ci continuate a dire da casa che sentite una vibrazione, un tac, ma non siamo noi. Quindi forse è una questione di microfono, forse è qualcuno che sta tagliando l'erba fuori. Forse qualcuno che bussa. Oddio, forse so, ci stanno comunque, dicendo non stiamo, andate bene. Non stiamo facendo niente noi. Vabbè ragazzi, ci sono, scusiamo. I telefoni, insomma, che vibrano, però comunque per lasciarvi in questo momento con una, diciamo, con un po' di animo un po' più agitato, divertente e sentirete altri tipi di vibrazioni, vi lasciamo con il pezzo di un altro mega esordiente che da tenere assolutamente sotto controllo all'interno del vostro radar musicale. Stiamo parlando di Bautista. E questa è il pezzo Dan Bro. Wow. Triplo 6 dicono Dan Bro, 3 botte per chi già c'era, si no te gusta pa' fuera, así no lo hace cualquiera. Marchio sulla testa, sì, ma non è niente, questa notte resta. Ma che deficiente, sorto nell'inferno, bro. Do salvagente, click, ehi, vado a rilento, già non ti sento, già me lo sento. Ehi, pugni sul mento, quanto ci metti, quanto ci tengo. Sappi, sappi, sappi, tu fingi di essere tranquilli. Quando non ti sento abbiamo fatto i matti. Cami, cami, cazzo, ed è in questo non sembro. Io piango sangue, fatti, fatti, sì, ok, ma non con Dio. Santo io, un ultimo bacio prima dell'addio. Esto es mio, todo lo che hago va per la mia bio. E sì che ti porto dei fiori, e sì che ti porto a Milano, e sì che ti spacco di cuori, la cazzo di chat dai dopo ne parliamo. E sì che mi lascio morire, e sì che cazzo mi frega, e sì che poi andiamo a ballare, ok, ok, ok, ok. E sì che mi bruciano i piedi, e sì mi hai inculato le scarpe, e sì solo quelle magari hai vinto, ok, ok, ok. E sì, chiamami ancora, e dai non hai rotto i coglioni, no. E sì che le cose peggiori, i nostri ricordi migliori, li hai persi là fuori, sui posteriori. Sì, nella punta di merda dei miei genitori. E sì, ci credo proprio, guarda, levati dal cazzo. E sì che mi lascio morire, e sì che cazzo mi frega. E sì che mi ammazzo piuttosto che tornare a casa tua, guarda. Lo sai, dico novembre. Davvero vuoi tornare indietro? Dopo quello che mi hai promesso, fottere il pianto sul cesso. Magari volessi sparire e farmi questo buco in testa, respingere queste manfrine, iniziare a pensare a chi resta. Butto lacrime pesanti, mangiare era solo un tabù. Ma non mentire agli altri, proprio come facevi tu. E questo era Bautista. Il mitico Bautista. Grande Bautista. Tra l'altro, scusate, ma noi abbiamo questo amico Edoardo, amico non amico, nuovo amico Edoardo, che effettivamente ci dice, fa una nota, perché è quello che mette le note a quello che diciamo, esatto. E ci piace molto. Grazie Edo. Esatto, Ardo. Specifica che Instagram, sì, è per scopare, quindi me l'ha confermato, ma solo come step 2 da Tinder. Come sì, se... è vero. Lui dice come fosse link al catalogo, quindi fa anche un collegamento proprio nel mondo del digitale, sì, tipo scopri di più, esatto. Tipo scopri di più, clicchi e voli in questa, quindi esatto. Grazie Edo, seguici sempre e riempici di perle. Ah, ma ci piace. Grazie, grazie mille. Ed eccoci alla seconda rubrica di questa avventura, che è la rubrica opinioni non richieste. Sì, perché in realtà noi vorremmo tanto che alle nostre puntate ci fossero anche delle altre persone. Ci arriveranno. Intervistare qualcuno, portarvi qualcosa. Oggi era un po' una prova e quindi... Insomma, non ce la sentivamo di aggiungere anche questo stress, diciamolo chiaro. Esatto. Quindi ai nostri amici che verranno a trovarci piacerebbe chiedere, ma tu cosa ne pensi di... X. Esatto, facciamo un caso, invitiamo un amico che, non lo so, fa dei vasetti in ceramica, quindi mettiamo che questo sarà il suo tema della puntata e poi a un certo punto gli chiediamo... Ma amico dei vasetti con la ceramica, cosa ne pensi della nuova serie di Netflix? Per dire. Oppure cosa ne pensi della politica estera del Belgio? Mettendoli in... enorme imbarazzo. Certo. No, però dai, il nostro obiettivo principalmente è quello di fare un po' di conversazione. Esatto. Che è un po' il nostro forte. Eccoci, guarda come sta arrivando. Eccoci. Lì. Guarda come sta arrivando lì. No, allora, perché il tema qua era sulla opinione non richiesta. Appena abbiamo detto debutto, a me subito è venuto in mente il ballo delle debuttanti. Perché... A chi non verrebbe in mente? Esatto, perché dillo ai nostri ascoltatori. Ok, forse da piccola un po'. Un po' ci speravo, no? Mamma mia! Era forse il tuo sogno nel cassetto? Raga, quei vestiti bianchi, il contone, bellissimo. Che bello! Ma credo di essere portata al ballo principesco. Sì, ma in che senso? Cioè, come l'hai scoperto esatto, di essere portata? Al ballo principesco. No, no, è una mia convinzione. Ah, ok, ce l'hai okay. tu. No, vabbè, non empirica. Anche una volta vomitato, tipo. Sì. Ok, va bene. Quindi abbiamo detto, cazzo, è il suo sogno nel cassetto. Esatto, perché il ballo delle debuttanti, se voi ci pensate, probabilmente abbiamo visto tutti scene di film, poi ovviamente c'è Ossì che ce l'ha riproposto in chiave moderna, aristocratica, sofferente. E sofferente loro non, poi. Non l'ho mai visto io Ossì, però mi immagino un po' quella roba là. Esatto. Vabbè, e comunque insomma, non versione mi sa vestito bianco, ma forse potrei sbagliare, non lo so. Comunque dalla chat Marta dice no, Marzi Delusion la debuttante. No, ma perché? Perché? Vabbè, dai, Poretti, Poretti. No, comunque abbiamo detto, cazzo, ma esiste, cioè almeno io mi sono chiesta, ma sto cazzo di ballo delle debuttanti c'è ancora nel 2020? Cioè c'è qualcuno che ancora pensa a voler essere una debuttante e o l'accompagnatore della debuttante? E io ero preparata. Marzia era preparata? Beh, perché Marzia non è mai non preparata. No, esatto, assolutamente. Esatto. Bah. Però vabbè, insomma, ci provo, ero preparata e sapevo che l'unico contesto in cui c'è, esiste il ballo delle debuttanti è quello militare. Cioè se tu sei un giovane cadetto dell'accademia militare, tu a un certo punto farai il ballo delle debuttanti e potrai portare la tua fidanzata o un'invitata, un'invitata anche, sì. amica al ballo delle debuttanti. Questo diciamo se tu sei alla casermetta, qua è la versione basic. Se tu invece sei nella Marina Militare di Livorno, mamma mia, e già sentite già il ritmo come cambia, la pelle d'oca, il sangue che vi batte ancora più forte. Esatto. Dove ci porti? Allora, quindi immaginatevi tu, ora, cadetto, chiudete gli occhi un attimo. Tu, 16 anni. 16 anni. No, di più forse. Di più no? forse lì un po' più vecchi. Sì? Forse lì un po' più vecchi. Vabbè, però quando entri in accademia magari ne è tipo 16, quindi esatto, inizi già un po' a pensare. Vabbè. Comunque sei nella Marina Militare, lì a Livorno, e a un certo punto ti dicono, ciao, andiamo a fare il ballo delle debuttanti, il migliore d'Italia, che il è il gran famoso ballo della Reggia di Venaria. E voi direte, ma la Reggia di Venaria non sta a Livorno? Lo so, ma è così. Quindi alla Reggia di Venaria, famosa location, situata nei pressi di Torino, molto esatto, bella, dove tutti gli anni fanno anche il club to club, una parte per club dirne, to club, per dire un ballo un po' più moderno, un gran ballo più di arte contemporanea, molto bello. Dove tutta Milano va a Torino anche. Ma poi tra l'altro la Reggia è bella anche quando non c'è niente, anche quando non c'è Milano, sì, anche quando non c'è Milano e anche quando è vuota, cioè è proprio certo, un bel posto, è un bel, bel pavimento, e pensate quanto è bella quando c'è il gran ballo della Venaria Reale. Tra l'altro scusate, mi permetto di leggere due righe da questo, perché cioè noi vi stiamo parlando del gran ballo della Venaria Reale, ma un dépliant di spiegazione che è incredibile. Cos'è? Inizia così: cos'è il gran ballo della Venaria Reale? E vado a leggere. Si tratta di un'esperienza unica nel suo genere che permette di vivere un sogno ad occhi aperti, ma allo stesso tempo di porre un'attenzione particolare ai valori fondamentali della società in cui viviamo. Quindi, non è che balli e basta. No. No, no, non balli e basta, ti insegnano a vivere. A vivere il sogno e far parte del sogno. Far parte del sogno, infatti al Gran Ballo della Venaria Reale tu di base per partecipare, tu giovanissima ragazza 16-17 anni, per partecipare Paghi. Come tutto. Però questo un po' è il di sogno, selection. Questo è il sogno. Come questo è il sogno. E cos'è che paghi? No? Paghi l'iscrizione. L'iscrizione. E poi c'è un corso di formazione. Che dura una settimana, se non sbaglio. Presso l'aeroporto militare di Cameri. Madonna, ma tu sei proprio il re del dettaglio. Sì, del sì, dettagliuccio. Sì, ok. Scusa, possiamo anche l'aeroporto di Cameri. Un po' fuori dal comune, probabilmente voi non sapevate fino adesso l'esistenza dell'aeroporto di Cameri, che è a Novara. Ma è preparatissimo. Sì, ok, quindi ciao aeroporto di Cameri. Ciao. Quindi arrivano queste ragazze, io immagino da tutta Italia, sì, diciamo da tutta Italia, con i cadetti della Marina Militare di Livorno. Sì. Ciao anche a loro. Ciao anche i cadetti. Si incontrano a Novara, questa è una bellissima storia, sì, di provincia. In un aeroporto? In un aeroporto. Insieme per tutta la settimana ballano, imparano come al il bon ton, come stare seduti a tavola, fanno delle sedute di fitting per i loro abiti. Bello. Sì. E questo insomma, poi arriva la gran serata e il sogno si avvera, le famiglie per prendere un tavolo alla Reggia pagano di nuovo. Per entrare a parte e fanno parte dell'associazione Gran Ballo della Venaria Reale. Che sì, uno dice, no? Vien voglia. Vien voglia. E niente, questo raga è il gran ballo della Venere Reale, che vi invito a seguire sulle loro pagine social. Al momento stanno ripercorrendo i momenti salienti, le danze, i balli, eccetera eccetera. E perché via. Quest'anno non c'è stato, immagino. No, quest'anno c'è stato. C'era scritto però che c'era stato a novembre, forse quando il prossimo novembre. Quindi quest'anno le giovani ragazze desiderose di essere protagoniste di una favola moderna non hanno potuto. Niente. Quindi l'anno prossimo boom di iscrizioni. Quindi possiamo dire che abbiamo succato tutti in questo 2020? Sì. Anche i cadetti. Chissà se tra la debuttante e poi il cadetto è mai nata una love story, perché a differenza delle altre balie debuttanti, quelle di provincia, dove probabilmente c'è un cadetto, un piccolo cadetto che viene magari dalla Calabria o dalla Basilicata, e una ragazza un po' posh, non di un centro città, per esempio da Monza, da Lissone o da Baranzate. Dove vogliamo andare a parare? Immagino che lì ci sia un match. Invece qui vengono proprio messi insieme. Quindi tu mi dici, chissà. Ma secondo me sì, no? Cioè alla fine tu non ti innamorerai, immaginati, sei lì col tuo vestito bianco, lui è al tuo fianco. Probabilmente vestito come tutti gli altri. E tu uguale. E pensi, ma... ma chi me l'ha fatto fare? Che cazzo c'è? Tranne Marzia, invece... Non vorrei farvela credere male. L'ho pensato. Vabbè, insomma, quindi chiudiamo questo... Sapevatelo. Sì. Esiste ancora il ballo delle debuttanti. Costa per iscriversi. Il più famoso è quello della Gran Ballo della Venaria Reale. Esatto, a Torino. A Torino. E qui citiamo... grandi opportunità di crescita personale e di arricchimento esperienziale. Cioè, te le danno tutte. Vivi la favola, ti arricchisci personalmente, paghi, è poi bellissimo. Paghi di nuovo. Adesso bellissimo. Però vi facciamo vivere un sogno, vero? Con il prossimo pezzo. Vabbè. E qui... Che non trovo nel... Ce l'hai già selezionato. Ok, l'abbiamo trovato. E qui... No, è già proprio pronto. Perché ti eri già portato avanti. E allora dici... Che pezzo è? 1999, eravamo tutti abbastanza piccoli, ma sicuramente questo gruppo a noi della nostra età, a ce quelli fa un po' piagne, più grandi, a quelli un po' più piagne. Piccoli, ci ha cambiato un pochino la vita. Ce fa piagne. Un pochino. E quindi avrete capito che? Stiamo parlando proprio di loro, dei Verdena, e questo è Valvonauta. Mamma che piagne. Questi erano i Verdena con Valvonauta. 1999. Vabbè, cioè dai, chi non ha, cioè, chi non ha pianto con i Verdena, alzi la mano. No, no, piango, io piango, non lo so. Ma non far finta che se sei uomo non puoi piangere. No, no, ma anche i maschietti, allora, anche gli uomini piangono. Però ora non mi viene in mente un momento, certo, in cui ho pianto. Io in età adulta, perché essendo troppo piccola per aver ascoltato i Verdena... Quando eri piccola. Quando ero piccola, comunque più o meno... Sì, perché nel 99 avevo 7 anni. Sì, no, no, not time for Verdena not quando avevo 7 anni. Però ho pianto in età adulta. Ah, vabbè, possiamo dirlo. Comunque pare che qualcuno di, dei nostri fan, possiamo chiamarli così, ascoltatori, o meglio, la mia amica Giulia, pare che le abbiano chiesto alle superiori di debuttare. Le hanno proprio proposto di debuttare e oltretutto sua cugina ha debuttato. Brava, ma raga, cugina. Ma infatti mega comune. Anche io me lo ricordo che la mia amica, la sorella della mia amica Giada, anche lei era ciao andata. Giada. Esatto. E niente, siamo ragazzi, alla fine. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Vabbè, poi scriveteci, diteci cose. Sì, nelle prossime puntate vorremmo parlare anche un po' più di progetti. Sì, un sì, po' sì. Di l'idea è quella di scegliere dei progetti, degli ospiti che facciano cose fuori dal comune, quindi raccontarci appunto attività, progetti. Però sogni. Anche buttarla un po' in vacca come stiamo facendo. Ma poi ci pensiamo noi, cioè, capito? Noi invitiamo quello, glielo facciamo credere e poi la buttiamo totalmente in vacca. Ottimo. Va bene. E grazie a com'è tutti. Che si saluta? Ci sentiamo la prossima puntata. Che non sappiamo quando è, ma arriverà presto. Probabilmente nel 2021, raga. Sì. Iniziamo così con la puntata numero 1. La vera puntata numero 1. 2021. Uno. Puntata 1. 1, perché gennaio 1. Non l'1 gennaio, perché gennaio, no, è zona rossa, tra l'altro. Zona rossa, quindi ragazzi, stay safe in questi giorni, noi siamo fuori dal comune, per i vostri, se vi siete tanto divertiti e lo volete consigliare a amici, parenti, o se lo volete mettere proprio come sottofondo della al pranzo di Natale, noi ve lo consigliamo. Arriverà in podcast sul sito di Radio ZAM, quindi seguite ZAM su Instagram, su Facebook, su Telegram, non so, fate qualcosa, ma seguitelo. Grazie ragazzi della niente. Chat, ci siamo molto, molto divertiti, ci avete tenuto compagnia. E se invece siete di quelle persone che non vi è piaciuto e non volete sentirlo più, fatevi i cazzi vostri. E andate a cagare, ok. Vi lasciamo baci. Con l'ultimo pezzo della serata, sono gli Strokes dal loro album d'esordio 2001, se non sbaglio, New York City Cops. E noi siamo Marzia, Marghe e Fede. Ciao. Bottom of the